as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi non potevamo non fare una puntata dedicata allo sciopero generale di venerdì 29 novembre. Sciopero generale importantissimo. Siamo stati alla manifestazione di Bologna, come dovuto. Ero con i miei compagni di lavoro, ero lì. C'è stato un bellissimo spezzone del nostro gruppo. Ci sono stati tantissimi operai, tantissimi lavoratori, tantissime persone di vari comparti. Abbiamo notato che questa volta c'era tantissima gente rispetto alle altre volte. Sono state organizzate bene le assemblee, diciamo, in tantissime categorie. E questo ha portato a casa dei buoni risultati. Molto probabilmente c'è una rabbia tra i lavoratori contro questo governo. Sentono che ci sono dei grossi problemi in questo momento in Italia e nel mondo, e hanno reagito scendendo in piazza e hanno ascoltato l'appello del nostro compagno Landini e di altri sindacati per scendere in piazza e riprenderci le piazze, fare sciopero e scendere in piazza. Ora, abbiamo intervistato 10 operai, lavoratori e funzionari in questa puntata. È una puntata in cui io vorrei far parlare loro. Diciamo, qualcuno è stato un po' politicamente scorretto, però così come sono venute le interviste, così le ho date, le ho inserite, senza fare tagli e nulla. Insomma, sono state interessanti perché loro raccontano tutto, dicono tutto e fanno capire quello che c'è stato in piazza e quello che i lavoratori pensano. Chiaramente abbiamo intervistato dei compagni, la stragrande maggioranza dei comunisti, la stragrande maggioranza dei lavoratori FIO, ma abbiamo sentito anche altre categorie, logistica, sanità. Insomma, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo che secondo me ci sta. L'abbiamo ascoltato parecchie volte durante la manifestazione, la vediamo qui in radio. Poi sentiremo le interviste, vari personaggi, qualcuno conosciuto perché abbiamo già intervistato, altri no, e poi ci sentiamo per conclusione. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Ignazio, siamo qui adesso in piazza, siamo arrivati, Piazza Maggiore. Racconta un po', oggi si sciopera, tu sei, lavori nella logistica però all'interno di una fabbrica, sei qui. Sì, oggi siamo qui, 29 novembre, un corteo fantastico, molto lungo, molto partecipato, c'è tantissima gente, tantissime bandiere rosse, tantissima CGIL, siamo qui anche noi della logistica, perché siamo qui a manifestare ovviamente perché principalmente si vuole cambiare la manovra finanziaria, c'è bisogno, tanto bisogno di salari, di aumentarli, perché aumentano i costi su tutto, aumenteranno i costi pure sulla sanità che già è tartassata, sappiamo tutti bene in che condizioni vivono i lavoratori di quel comparto e che però ricadrà anche su, inevitabilmente sui nostri costi, sul costo delle nostre vite. Da qui la rivendicazione forte di poter avere più soldi a disposizione, più salario. Per cui oggi speriamo di andare avanti. Speriamo di andare avanti, tra l'altro è una rivendicazione forte contro questo governo, perché come dire, hanno fatto in diversi momenti molte promesse, mi sembra che non ne stiano rispettando una. Sulle pensioni, doveva essere smontata la Fornero completamente, la situazione è peggiorata. La sanità, loro parlano di non aver tagliato, ma mi pare che non abbiano nemmeno i soldi per le spese correnti. Per cui siamo qui con molta decisione. Ok, grazie Alessio, grazie mille. Adesso sentiamo un po' la voce del popolo, qua c'è un operaio, un vero operaio, un immigrato italiano. Buona giornata a tutti, sì, è veramente una bella giornata, sono veramente contento e felice di essere un lavoratore e di essere iscritto alla FIOM. Siamo gli unici che ci facciamo rispettare. Volevo lasciare però un'informazione per chi è entrato stamattina a lavoro. La FIOM CGL di Bologna proclama, giocati tutti i numeri oggi, 29.71. Siamo in radio, siamo. Non ti preoccupare. Vai. Giocatevi 29.71. Sarebbe? Quale vedrete? Con me è di grande azzocca. Buona giornata e avanti con il contratto, ragazzi, avanti con il contratto, lottiamo fino alla fine. La voce del popolo, voce del popolo. Ecco il nostro amico, caro compagno Nello Signoriello, sei anche tu in piazza con noi chiaramente. Beh certo, non potevamo mancare, questa volta siamo in tanti perché abbiamo incominciato quel percorso che avevamo chiesto alla FIOM nell'occasione in cui tu mi hai fatto la prima intervista. E oggi in piazza si è, come dire, si è materializzato il comparto ascensori all'interno della FIOM. Sono qua con dei compagni delle altre aziende multinazionali, grandi e piccole, e questo è l'inizio di un percorso che cresce insieme alla rivendicazione del nuovo contratto collettivo nazionale. Io ringrazio la mia organizzazione perché ci ha dato credibilità e ci ha dato l'agibilità per mettere in piedi questa esperienza nuova. Ok, grazie Nello. Ciao. Il nostro animatore. Dai, Edoardo, sì, siamo com'è qua. Com'è andata? Ma è andata molto bene, eravamo in tanti, anche più dei numeri previsti, ma noi ce lo aspettavamo, perché nelle aziende vediamo e nelle fabbriche che c'è un clima di rivolta sociale, proprio come dice il nostro segretario nazionale, che bisogna far montare manifestazione dopo manifestazione, sciopero, contro questo governo, contro le leggi repressive di questo governo e contro la manovra finanziaria di questo governo. Non hai voce perché sei stato a cantare tutto il tempo, a dare degli slogan. Certo, perché abbiamo ci siamo dati come obiettivo che i cortei non devono essere delle passeggiate, ma devono ritornare dei momenti di lotta. Quindi proprio per questo abbiamo nei giorni scorsi preparato cori, striscioni, fumogeni, insomma, per animare e avere un corteo combattivo che in qualche modo si facesse sentire, perché abbiamo bisogno di resistere un minuto più di loro, ma anche di farci sentire e ritornare forti tra le persone. E questa non è stata una passeggiata, oggi eravamo in piazza, abbiamo cercato di riprenderci le piazze. Certo, ogni manifestazione, ogni sciopero è un momento di lotta, in qualche modo di riaccentramento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Se c'è chi ha provato a toglierci negli anni scorsi, noi oggi stiamo cercando di ripartire e riprenderci, come hai detto tu, le piazze per che sono dei lavoratori e delle lavoratrici, non sicuramente dei fascisti. Ok, grazie. Eccola qui, siamo insieme a questa manifestazione, la nostra compagna. Allora, com'è andata oggi? Racconta. È andata benissimo, abbiamo lavorato un sacco, io sono straorgogliosa. Vabbè, poi io seguo i piccoli artigiani, io ho visto tanti artigiani in piazza e non è mai successo. Non è mai successo, ecco perché siamo anche tanti. Siamo tantissimi, perché anche i piccolini, anche la piccola media impresa e gli artigiani hanno partecipato, perché sentono bisogno di una rivolta sociale, una riforma sociale. Ma anche perché sono state fatte un sacco di assemblee anche degli artigiani. Tantissime, io ne ho fatte da 7 a 9 al giorno, ne vado orgogliosa, non avevo più voce, non sapevo più cosa dire, però la gente ha recepito e ha capito che serve cioè una controtendenza rispetto a quello a dove stavamo andando sostanzialmente. Andremo avanti, non ci fermeremo mai. Grazie Sonia. Grazie a te. Eccolo qua, compagno Loris. Dimmi un po', com'è andata? Guarda, una manifestazione importante, piena di gente, significa che qualcosa il governo deve assolutamente cambiare. Non si può, non si può andare avanti così. Il futuro ci spetta, il futuro per i giovani è qualcosa che non possiamo destinare ad una classe politica che è incapace di gestire questa manifestazione, queste esigenze, non è in grado di ascoltare. Quindi io auspico una caduta del governo e un ripristino della sostenibilità del lavoro, della sostenibilità del futuro, per un futuro migliore per tutti. Ecco, noi abbiamo anche il contratto però, tu sei metal meccanico come me, anche se io e te, io monto i motori e tu invece sei nel software, nel mondo dell'informatica. Assolutamente, il rinnovo del contratto è qualcosa che non può prescindere il diritto al lavoro. E avere dei partecipanti al tavolo che non ascoltano e declinano quelle che sono state le esigenze espresse mediante un referendum portato avanti dalla totalità, io non direi il 100%, ma è poco meno, dei lavoratori, è un qualcosa che oggi non ci si può permettere. Bisogna assolutamente far capire che non è questo il dialogo, non è questo il modo di condurre una trattativa, non è il modo di affrontare il futuro. E noi siamo qui anche per questo. Assolutamente anche per questo. Ciao, grazie. Ecco qua, c'è anche il nostro compagno, metalmeccanico come me, uno dei metalmeccanici. Vedi, tu lavori negli artigiani, prima abbiamo intervistato una funzionaria degli artigiani. Anche gli artigiani sono venuti in manifestazione, anche tu ci sei, anche altri. Allora, ovviamente, dico niente di che, ma il settore dell'indotto è un settore dove le pressioni di Confindustria e del patronato si sentono di più, diciamo, con un'altra amplificazione. Certo. Però devo dire che ho la fortuna di avere tutta una serie di contatti che mi permettono ancora oggi di avere l'informazione necessaria che dovrebbe avere ogni lavoratore su tutto ciò che è lo scenario del tessuto lavorativo e il contesto politico che stiamo attraversando adesso. Sta aggravando le condizioni di noi metalmeccanici, quindi la presenza oggi è ancora più giustificata, perché no, quello che viene identificato sbagliatamente come uno sciopero politico è da sottolineare il fatto che è uno sciopero politico che è dal basso e deve provenire dal basso e dalla classe lavoratrice. Ci sono tante sigle sindacali, tante realtà rappresentate in questa piazza, ma noi come lavoratori dovremmo promuovere all'interno dei posti di lavoro il protagonismo operaio e rivendicare quel ruolo che la storia ci ha dato, e non è apologia o ideologie fondate sul nulla il protagonismo che devono avere i lavoratori all'interno del tessuto lavorativo e di questo periodo storico. Grazie Corrado. Grazie a te. Eccolo qua. Tu sei il nostro cantante preferito della trasmissione Il Pane Rose, compagno Paolo Brini. Oggi siamo qui in piazza. Beh sì, è doveroso esserci, ovviamente lo sciopero generale è e deve essere solo l'inizio di una mobilitazione e di scioperi che pieghino effettivamente questo governo e i padroni nelle fabbriche. Non c'è dubbio che c'è un collegamento tra la politica che sta portando avanti questo governo di rapina nei confronti dei lavoratori per regalarla ai padroni, con la politica che sta facendo per esempio Federmeccanica sul tavolo nel rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, ovvero la rottura del tavolo perché non danno un euro pur avendo fatto profitti da nababbi, perché questo è il dato di fondo. Cioè, negli ultimi due anni le banche hanno fatto 100 miliardi di utile, l'industria ha fatto 52 miliardi di utile solo quest'anno, abbiamo nella metalmeccanica che i profitti nel 2023 rispetto al 2022 sono aumentati del 125% e abbiamo invece dall'altro lato un problema salariale devastante, per cui hai il 16% dei lavoratori che sono sotto la soglia di povertà, hai 4 milioni di lavoratori che hanno meno di 12.000 euro all'anno di reddito e quindi siamo vicini alla schiavitù. Addirittura il giornale dei padroni, il Sole 24 Ore, ha dovuto scrivere un articolo che dice quel travaso impressionante di ricchezza dal salario al capitale. Lo dice pure il giornale dei padroni, che questi stanno rapinando i nostri soldi per arricchire loro stessi. E è ora di darci un taglio con l'attacco al diritto di sciopero e col massacro alla sanità e alla scuola pubblica. È tempo di rivolta sociale, mi viene da dire di rivoluzione, ma fatta sul serio. Ma serve anche qualcosa, un'organizzazione politica che ci porti a far questo, o basta solamente il sindacato? La risposta viene da sé, naturalmente, no? Io ho aderito a un partito politico. Ha visto le bandiere oggi? Sono le bandiere. Partito Comunista Rivoluzionario. Sono le bandiere, molti compagni con le bandiere che stanno qui. Questa è la novità. La novità delle piazze, la novità, certo, di questa giornata. Assolutamente. Grazie mille, Paolo. Ciao. Eccola qua. Abbiamo una della sanità che sta insieme a noi della FIOM. Tu ti conosco, lavori nella sanità. Sì, io lavoro nell'azienda Ultra di Modena. Ok. Allora, voi siete oggi anche voi in piazza oggi. Eravamo curiosi di capire, voi della sanità avete qualche argomento specifico per essere qui in piazza? Sono tante cose che non vanno, ma voi penso che siete messi abbastanza male. Noi abbiamo molti argomenti, ecco. I nostri argomenti sono gli argomenti di tutti i cittadini, certo. Perché la sanità non funziona, non è soltanto affare di chi nella sanità si lavora, ma affare di tutti, no? Noi siamo intanto in una condizione di personale ridotto, con la fuga di medici, infermieri, personale del comparto che fuggono dal sistema sanitario nazionale perché non ci sono più le condizioni per lavorarci, condizioni di lavoro molto precarie, con tagli vergognosi, salari che sono sempre meno proporzionati al tipo di lavoro che ci viene chiesto, e questo naturalmente si ripercuote sul funzionamento della sanità, come è sotto gli occhi di tutti, anche nella virtuosa Emilia Romagna ormai. Certo, e tu sei a Modena, eppure anche tu ti lamenti che manca il personale. Poi non ci sono i soldi, non sono investimenti. Sono investimenti, sono tagli ormai da 20 anni che non smettono di esserci. Adesso siamo qui in piazza, speriamo di continuare. E penso che sia riuscito, ho visto molte persone della sanità oggi in piazza. Esatto, io questo volevo sottolineare, che per la seconda volta, perché anche l'anno scorso nella mia categoria, io lavoro poi nella salute mentale, siamo in tanti. Ecco. Medici e infermieri, e non è una cosa scontata perché noi non siamo molto sindacalizzati. Lo so. Ok, grazie di tutto, grazie Fede. Abbiamo qua dei veri operai metalmeccanici, stiamo parlando della Bonfiglioli, Forlì. Sì. Se i nostri colleghi. Sì. Certo. Allora, come è andata oggi? Il momento di pausa. Benissimo, oggi ora siamo in pausa, ci mangiamo qualcosa, ma è andata benissimo. Benissimo, c'è un full di gente, cioè, mai vista tanta tantissima gente. Tantissima gente, veramente Bologna ferma, bloccata. Contenti. Finalmente vediamo la gente realmente incazzata. Ottimo. Era ora. Piazza pienissima. Noi abbiamo tante cose da fare, come sì, FIOM, come metalmeccanici, come Bonfiglioli. Come Bonfiglioli. Da noi 90% di adesione. Ottimo. I soliti pochi crumiri. Esatto. I soliti. Qualcuno di noi ha detto anche qualche cosa, no? 72. Sì, però diciamo un 90% di adesione c'è stato. Ottimo, e anche la partecipazione è stata più alta delle altre volte Ottimo, buono, buono. Ancora poco però, però. Noi siamo in cassa, voi lo sapete, perché c'è anche gente che c'è in cassa integrazione oggi. Appunto. Da cui io, anche se mi sono fatto mettere in sciopero, vabbè. Bravo, grande. E niente. Ci voleva questo bel segnale, ci voleva. Ottimo. Speriamo che continui. Ok, grazie ragazzi. Grazie, ciao. Allora, voce della piazza. Caro compagno. Siamo qui adesso, siamo un attimo in pausa, Vinello, la Storia del Sole, facciamo anche pubblicità. Va. Sì, infatti, dai, ci siamo messi bene. È finita la manifestazione, siamo qui, allora com'è andata oggi? La manifestazione, dopo me la lavori? Io sono Luca, lavoro in Manitou, costruzione totale di Modena, provincia di Modena. Diciamo che la possiamo indicare manifestazione, sì, di gente ce n'è, però non vedo quel pieno che sarebbe dovuto esserci sicuramente. Noi speriamo sempre di più. E noi speriamo ovviamente che sia il primo passo verso veramente una rivolta sociale che ha indicato il nostro segretario. Quindi i passi da fare sicuramente sono enormi e siamo all'inizio. C'è da andare a costruire veramente un nuovo sistema di lotta che abbiamo perso negli ultimi come minimo 30 anni, più o meno. Speriamo che oggi sia quella data che ci possa dare questa forza. Noi come compagni dovremo comunque in qualsiasi posto portare avanti le nostre idee, che siamo convinti che sono quelle giuste per cambiare il sistema internazionale, il sistema capitalistico, quindi rovesciare per riportare dignità a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori del mondo. Grazie mille compagno. Grazie a te. Mattina mi son svegliato, bella ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via, oh bella ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire, se io muoio da partigiano, oh bella ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, delle genti che passeranno, oh bella ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, bella ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ed è la rossa la sua bandiera per il sangue che versò. Abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo che durante la manifestazione del 29 sciopero generale abbiamo ascoltato all'infinito, cantato dai lavoratori e dalle casse dei camioncini. Abbiamo ascoltato prima di Bella Ciao a bellezza di 11 lavoratori tra funzionari che hanno raccontato quello che è successo in piazza, che hanno spiegato le motivazioni dello sciopero, le motivazioni delle manifestazioni, e hanno, io penso, sono state esaustive le interviste. Per chi non riuscirà ad ascoltare la puntata il martedì alle 1:30, noi andiamo sempre in onda, può trovare sulla pagina Facebook di Pane e Rose la puntata podcast. Ora, lo dico chiaramente, mi ha colpito tantissimo quello che è successo dopo la manifestazione, perché abbiamo fatto un'intervista, abbiamo parlato dei comunisti che erano presenti, tantissimi gruppi c'erano durante la manifestazione, veramente, a parte che questa volta hanno scioperato, anche se non li ho visti con le manifestazioni, forse erano in qualche altro presidio, anche alcuni sindacati di base, ed è stata credo la prima volta che si scioprano, erano anni che non succedeva questo. Peccato che l'USB e Sicobas non hanno scioperato, ma scioperanno credo il 13 dicembre, poi penso che abbiano fatto un altro prima. E però veramente questo appello da rivolta sociale di Nandini è stato ribadito nelle manifestazioni, anche abbiamo sentito i nostri colleghi che l'hanno, io stesso avevo una pettolina con la scritta rivolta sociale, chi mi ha visto, chi mi ha incontrato, e questa rivolta sociale fa paura, fa talmente paura a questo governo, il quale sa di dire tantissime bugie, sa di dire tantissime stupidaggini, sicuramente questo governo sa che è l'unica cosa che deve fare chi lo comanda dall'alto, gli chiede quello di prendere le risorse di questo paese e dedicarle tutta alla guerra, tutta al riarmo. Non dimentichiamo che hanno trovato miliardi e miliardi sia per la guerra in Ucraina, sia per armarsi e acquistare armi, vendere, dare armi in Israele, stiamo dando armi in tutto il mondo dove c'è una guerra, questo sì viene fatto, ma dunque bisogna tagliare tutto, o dove non si taglia effettivamente non si fanno gli investimenti che devono essere fatti. Sanità, piano industriale, pensioni, futuro, futuro di questo paese, transizione ecologica, non si sta facendo assolutamente nulla di quello che si dovrebbe fare, servirebbero risorse che non vengono messe. Però facciamo paura, perché quello che è successo sul giornale, che addirittura un volantino, il partito di cui stavamo parlando, dei miei compagni della sinistra sindacale, di cui anch'io faccio parte, che chiedevamo a Landini di fare sul serio la rivolta sociale, di andare avanti, è stato attaccato, il giornale ci ha fatto un articolo, siamo fieri di questo, perché vuol dire che se il giornale ci attacca, sappiamo benissimo il giornale cos'è, posso definirlo qui, così come anche Fedele d'Italia ha attaccato il nostro volantino, chiaramente c'è questo attacco della borghesia italiana verso un volantino della sinistra sindacale, ci fa capire quanta paura possono avere, quanta paura fa Landini. Per quanto possa essere criticato, in questa trasmissione l'abbiamo criticato più volte, oggi è un punto di riferimento che fa paura, e se lui posta a sinistra fa ancora molto più paura, perché fa tremare la borghesia di questo paese. Io spero che Landini vada avanti, ma in realtà che la CG vada avanti, perché Landini è una persona, quando parliamo di Landini parliamo della segreteria, quando non esiste il segretario che decide tutto lui, c'è una segreteria, c'è un'organizzazione, c'è un'assemblea generale, ci sono dei congressi, delle linee politiche. Spero che la linea politica della CGIL vada avanti verso la rivolta sociale e possiamo cambiare questo paese come tanti lavoratori chiedono, e speriamo di riuscirci. Un saluto compagni, a presto, la prossima puntata. Orgoglioso de estar, entre el proletariado.